risultato importante dopo 40 anni di lavoro, molto, molto importante, molto, è un risultato che sicuramente corona 40 anni di lavoro, e bisogna ringraziare in questo la Procura Generale che ha fatto un'indagine veramente molto accurata e i nostri avvocati, il Collegio di Parte Civile, che non si è lasciato scoraggiare dai tentativi di insabbiare tutto e che ci sono stati in precedenza, e credo che questo sia un fatto estremamente importante. Si respira un po' un clima nuovo, perché insomma abbiamo visto delle novità anche a Brescia. E beh, speriamo, quello che viene fuori da questo processo sicuramente sarà utile per il proseguo, le varie inchieste e le varie situazioni che ci possono essere in futuro. Cioè, questo è un processo che sviscera alcuni punti relativi a processi che sono finiti in maniera abbastanza problematica. Sicuramente sarà utile anche per Brescia questo processo, i documenti che vengono fuori da questo processo saranno utili anche lì. Ecco. Certo. E tieni anche conto che nell'ambito del nostro processo sono intervenuti in maniera massiccia i documenti fatti per il processo di Brescia che ha condannato Maggi e l'altro esecutore della strage. Possiamo dire che ci stiamo avvicinando finalmente alla chiusura del cerchio? Ma diciamo che questo è un passo importante per arrivare alla chiusura del cerchio, se ci lasciano poi arrivare alla chiusura del cerchio. Tieni presente che questo era un processo che non si doveva fare, si è fatto, adesso faranno di tutto per bloccare il proseguo. Quindi temete questo, insomma? Sì, già ci sono questi sono i nostri timori per il futuro. Adesso godiamoci il momento, poi vediamo cosa succede.